Bene, eccoci, siamo all'appuntamento con Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa, ogni giovedì dalle 14 alle 15. Per saperne di più sulla scaletta di oggi basta consultare il sito della radio www.ondarossa.info alla voce trasmissioni Visionari per l'appunto. Gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di domani venerdì 22 luglio, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in televisione per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo, gli altri appuntamenti della settimana oltre a quelli di cui non parleremo in questa puntata e poi il link per ascoltare la puntata precedente, leggere interviste e recensioni. Ci sei, Cosimo? Sì, ciao! Ciao, allora Cosimo Alemà, regista del film At the End of the Day che uscirà in sala domani, giusto? Sì, domani sera, 22 luglio. Allora, è il tuo debutto in un lungometraggio di finzione, se non sbaglio? Assolutamente sì, perché è il mio primo film, quindi insomma, vabbè. Senti, tu è vieni... un figlio particolare. Un figlio particolare, certamente. Senti, tu vieni da un'esperienza legata soprattutto ai videoclip, se ricordo bene. Sì, sì, io assolutamente sono un regista che viene dalla pubblicità. Sono 15 anni che lavoro appunto in pubblicità, insomma ho girato più di 300 video musicali in questi 12 anni, quindi insomma ho un'esperienza del tutto diversa, però insomma la verità è che uno parte perché vuole fare il cinema, poi a un certo punto viene prestato ai lavori su commissione, inghiottito per almeno 10 anni, e un giorno ti ricordi che volevi fare il cinema. E quindi insomma quindi tutta questa avventura era cominciata con un sogno 10 anni prima, insomma tu volevi era altro quello che volevi fare, insomma. Beh sì, insomma io ho cominciato a metà degli anni 90 facendo il regista, però poi appunto come tutti i miei colleghi che poi a un certo punto iniziano a fare pubblicità non riesci più a diciamo a trovare un attimo di tempo e insomma a un certo punto ti devi proprio fermare, ecco. Eh sì. Senti Cosimo, allora parliamo del tuo lavoro, di questo film, intanto per chi ci ascolta parliamo dell'argomento, io ho avuto modo di vederlo nell'anteprima stampa, però insomma raccontiamolo per sommi capi a chi ci ascolta. Sì, guarda, il film tratta insomma di un gruppo di ragazzi che si ritrovano una domenica per andare a giocare una partita di soft air, che per chi non lo sapesse sono i giochi di simulazione di guerra. Vanno in questo posto insomma abbastanza deserto e disabitato di natura, finché a un certo punto non vengono sfidati a una guerra vera, quindi anziché diciamo con le loro armi giocattolo, con delle vere armi, da un gruppo di bifolchi del luogo. E basta, questo insomma, e iniziano a morire diciamo senza neanche capire che cosa succede. Questo è un po' il plot. Allora, il messaggio mi sembra venire dal tuo film, la prima impressione, sì, stando alla proiezione, quindi con in testa quelle immagini, è che la guerra non è mai un gioco. Beh, la guerra non è mai un gioco, per cui insomma in effetti quello che fa un po' riflettere è la metafora così, no? Di vedere questi ragazzi super organizzati, iper tecnici, con queste attrezzature sofisticatissime ma giocattoli, soccombere uno dopo l'altro di fronte appunto a un manipolo invece di insomma gente molto più rude con dei ferri vecchi che però siccome sparano veramente, non so come dire. E quindi così in realtà è un po' quello, un po' una riflessione sulla guerra, un po' l'ennesima riflessione così un po' alla Tranquillo Weekend di paura, così dell'uomo che a un certo punto sfida un po' la natura e quindi sconfina proprio da un punto di vista geografico in territori che non gli competono e quindi con tutta una serie di insidie e di imprevisti che questo potrebbe portare. La storia, l'incipit perlomeno, poi non so lo sviluppo in fase di sceneggiatura, comunque tutto si basa su una storia realmente accaduta. Sì, diciamo che nonostante noi abbiamo avuto un'idea in qualche maniera originale, invece facendo delle ricerche abbiamo scoperto che negli anni di tutte le cose tremende successe nella ex Jugoslavia erano successi dei fatti con delle analogie abbastanza inquietanti con quello che stavamo scrivendo, perché ci sono state storie nei primi anni 90 proprio nei Balcani di gruppi di cacciatori uccisi dai soldati quasi per gioco, di ex cacciatori militari dell'Unione Sovietica che venivano ancora utilizzati per scopi di criminosi di pulizia etnica, e quindi è ovvio che il film è ispirato ad una serie di fatti realmente accaduti. Sì. Ti chiedo come mai il titolo in inglese e la presenza di un cast internazionale? Ma guarda, perché noi volevamo fare un film che non fosse soltanto per l'Italia, no? Quindi volevamo un po', diciamo, rompere questa tradizione ormai consolidata in questi ultimi 25-30 anni che il cinema italiano è solo per gli italiani. E all'estero ti assicuro che la vedono veramente così, cioè i film italiani sono considerati veramente country specific, vuoi per gli argomenti, vuoi per come vengono realizzati. E quindi invece, siccome il nostro cinema storicamente riusciva a proporre e produrre grandi successi anche a livello internazionale, così noi volevamo fare un film che varcasse un po' i confini dell'Italia. Certo. E quindi ci è sembrato molto naturale girare in inglese, in una lingua che potesse ovunque, soprattutto nei grossi mercati anglosassoni, essere vista e consumata. E quindi di lì la seconda scelta, la più ovvia, era quella di chiamare non degli attori italiani a recitare in inglese, ma come facevano tutti, da Leone ad Argento, così chiamare gli attori stranieri madrelingua a recitare. Quindi abbiamo preso un aereo, siamo andati a Londra perché volevamo mantenere comunque un carattere comunque europeo e soprattutto abbastanza, diciamo, anti-americano, perché questo film tenta di essere abbastanza così un film europeo e non un blockbuster americano, nonostante l'impianto narrativo. E quindi siamo andati a Londra e abbiamo cercato degli attori lì, abbiamo fatto dei casting molto lunghi, molto belli, abbiamo trovato degli attori giovani, abbastanza con poche esperienze cinematografiche, ma a mio avviso straordinari, e quindi abbiamo un cast di esordienti, tutti provenienti da vari paesi, diciamo, di lingua anglosassone, che comunque c'è un americano, la protagonista è canadese, ci sono tre inglesi, un tedesco, uno scozzese, un irlandese, e quindi abbiamo chiuso un casting così. Ecco. Questo il discorso del cast, ok, però a questo punto ti chiedo anche qual è stato l'iter dall'ideazione fino alla realizzazione. Ma sai, l'iter è stato molto travagliato, soprattutto all'inizio, prima di quest'ultima fase in cui il film l'abbiamo fatto veramente, perché per molto tempo, per 2-3 anni abbiamo tentato di farlo questo film, nonostante io stesso i miei soci produttori eravamo assorbiti in tutt'altre faccende lavorative e tutto quanto, però abbiamo tentato di farlo in una maniera un po' classica, quindi tentando di trovare soldi da produzioni major, e in qualche maniera ci siamo anche riusciti. Per esempio con la Eagle Pictures avevamo firmato un'opzione, se Dio vuole ci entrarono un po' di soldi che ricoprirono all'epoca in tutte le spese e il lavoro, per esempio, fatto per lo sviluppo della sceneggiatura. Però poi a un certo punto la Eagle, per esempio, è stata ceduta, è stata venduta dai fratelli D'Amico, e quindi ci siamo ritrovati addirittura che il nostro film non potevamo neanche usarlo noi, perché l'opzione con questa società, che nel frattempo aveva venduto con tutti i progetti annessi che erano saltati, così, e comunque i diritti non erano nostri. Abbiamo aspettato un anno che ritornassero in possesso i nostri diritti per la sceneggiatura. Poi per un anno abbiamo fatto finta un po' che il film non esistesse, no? Sai, un po' tipo il figlio morto di cui non se ne parla neanche, appunto non ne parlavamo neanche tra di noi. Poi sei di ore Fulvio Compagnucci, che è il mio socio, un giorno è arrivato in ufficio e ha detto vabbè, lo facciamo. Questo accadeva 2 anni fa e da 2 anni, dopo pochi mesi, eravamo sul set, siamo riusciti a coinvolgere tutte le persone, dal primo elettricista a tutto il cast, ed era insomma un numero di persone veramente impressionante, tutte diciamo con il metodo cosiddetto dei co-producers, ovvero dove il tuo lavoro viene stimato e corrisponde a una percentuale di proprietà proprio sull'opera, e quindi essendo anche i miei collaboratori quelli che diciamo 30 settimane l'anno sono con me sul set, quindi insomma una vera e propria famiglia di fedelissimi. Ci siamo richiusi in un agriturismo vicino a Bracciano e in 5 settimane in 62 persone abbiamo girato questo film. Ah, quindi vicino Bracciano, questa è la location? Sì, tra Bracciano, Manziana, insomma tutto nei dintorni di Roma. Benissimo. Senti, volevo a questo punto, tornando invece alla storia vera e propria, credo che uno dei punti di forza più inquietanti poi del film, sempre tornando al discorso della guerra come gioco, che non è un gioco poi alla fine, è che l'identità e soprattutto il disegno che hanno in mente questi militari veri e propri resta un po' avvolto nel mistero, e questo aggiunge, sì, certo, aggiunge ulteriore inquietudine, no? Beh, un po' sì. Noi volevamo appunto tenere così l'ambientazione il più possibile neutra, un po' perché volevamo che, diciamo, per noi magari vedendolo l'ambientazione geografico-temporale appunto è un pochino più connotabile, uno di questi cattivi, di questi bad guys, insomma ha una faccia inequivocabilmente diciamo slava, quindi sì. Ecco, appunto per noi magari è vicino quella cosa, insomma, di avere questa sensazione di qualcosa di balcanico, mitteleuropeo, però vedo che anche all'estero quando lo vedono gli americani pensano a tutt'altro, quindi insomma ognuno ha modo di connotarlo e collocarlo dal punto di vista geografico dove meglio crede. Ci vede il cattivo che vuole, insomma. Un po' sì. Senti, la figura risolutrice è femminile, come mai questa scelta? Ma guarda, in realtà non lo so, è sempre stato così dal primo giorno, insomma, da quando ho avuto l'idea per questo film, volevo che tutto questo fosse vissuto dagli occhi di una donna, perché probabilmente penso che insomma coincidesse di più. Lei è l'unica persona che va a giocare a questo gioco e dall'inizio è abbastanza, come dire, così ci crede molto poco, gli sembra abbastanza un po' una cazzata questa cosa del giocare alla guerra, quindi non lo so, pensavo che un personaggio femminile anche nei confronti, insomma, nel momento in cui si trova di fronte appunto alla morte, alle atrocità che succedono nel film, così che uno spettatore possa essere più, ancora più scosso, no, da quelle che sono le reazioni di una protagonista femminile. E quindi poi insomma c'è nel film, c'è questa storia fra queste due sorelle, quindi insomma mi sembrava molto naturale che ci fosse così. Allo stesso tempo abbiamo cercato di così uscire un po', no, dai cliché delle scream queen dei blockbuster americani, quindi abbiamo scelto comunque un'attrice di cui io sono abbastanza entusiasta, è molto probabile che si faccia anche un altro film insieme, che è Stephanie Chapman Baker, che non è la classica figa tettuta insomma di certi slasher, ma insomma è un'attrice con un registro così abbastanza insomma notevole, recitativo, che riesce a essere bella, mascolina, insomma, però in una maniera così, insomma, un pochino più fuori dai cliché, insomma, sì. Sì, un pochino, sì. Senti, Cosimo, nonostante, ecco, parlavamo di una figura risolutrice, però comunque il diciamo l'epilogo è molto nero. Insomma, diciamo ora senza svelare cose, sì, però certo, diciamo che in generale questo è un film abbastanza senza speranza, quindi insomma non può che essere così. Quindi questo è il tuo pensiero rispetto insomma all'uomo e alla guerra, all'uso delle armi? Come? Scusami, non ti ho sentito. Dico, questo quindi è un po' il tuo sentire rispetto alla guerra, alle armi, al rapporto che l'uomo ha con questi elementi? Beh, sì, sicuramente, insomma. Diciamo che negli anni in cui questo film era scritto, erano anche, insomma, ti parlo del 2004-2005, erano ancora un pochino più caldi anche certi argomenti che riguardavano, per esempio, appunto, insomma, le guerre recenti che hanno insanguinato insomma il Medio Oriente, le cose del genere, quindi in qualche maniera voleva essere ancora di più, come dire, ancora più sensibile a questo tipo di critica. Se pensi che il film all'inizio lo volevo chiamare Bush, che potesse avere un così una specie di doppia valenza, un po' il cespuglio, cioè sì, la belva, sì. E un po' insomma ovviamente un riferimento a una famiglia, a un personaggio insomma tremendamente, tra padre e figlio insomma, tremendamente scomodi, ecco. Senti Cosimo, allora da domani in sala in quante copie? Guarda, usciamo in un centinaio di copie, se Dio vuole la distribuzione copre un po' tutto il territorio nazionale, quindi insomma anche Sicilia, Sardegna, insomma da sud a nord, così. I cinema, soprattutto nelle grandi città, sono quasi tutti i multiplex, insomma anche qui a Roma usciamo in tutti i cinema un po' periferici, diciamo da Porta di Roma a The Space, a Parco dei Medici, Andromeda, non so, c'è il cinema Doria in città, però usciamo in 6-7 sale solo a Roma e copriamo un po' tutto il territorio, quindi siamo abbastanza contenti, speriamo di fare il culo al piccolo Harry Potter e a Capitan America che esce domani con noi, ma sarà molto difficile anche per il numero di copie. Però insomma, diciamo che nonostante questo periodo che sembra un po' sfigato al cinema, domani escono due film importanti, insomma, sia Beach Slap che Capitan America, e comunque diciamo ce la sfidiamo con tutti proprio i filmoni americani delle mega produzioni, quindi diciamo che comunque vada il nostro piccolo film, insomma speriamo che sia un successo comunque. Cosimo, allora, un abbraccio e a risentirci prossimamente. Dai, evviva, grazie mille. Ciao. Ciao, ciao a tutti, ciao. Cosimo Alemà, regista del film At the End of the Day. In collegamento con Giuseppe Laganà, regista del documentario Schiavi, che sarà trasmesso da Rai 3 il prossimo 27 luglio. Ci sei? Sì, sono ecco. Qui, ciao Giuseppe. A tutti. Allora, un titolo che è molto significativo, di cosa si parla? Beh, è un viaggio attraverso la penisola, attraverso l'Italia, alla ricerca di storie di ordinaria schiavitù, quindi sono tre storie, tre protagonisti, la prima una ragazza, Miss Lagos, una ex prostituta nigeriana che passa dall'inferno della prostituzione e della schiavitù all'inferno della malattia. Il secondo personaggio è Abubakar, un ragazzo che è stato massacrato in un campo di pomodori nel Foggiano, che trova la forza e il coraggio di denunciare il suo sfruttatore. La terza è la storia di James, che è un ragazzo del Ghana che viene sempre picchiato brutalmente a Rosarno, però per un anno vivrà da uomo libero grazie insomma al suo lavoro che viene prestato nelle terre confiscate all'Andrangheta dell'associazione Libera Terra di Calabria. Ho tre storie comunque di migranti. Tre storie di migranti, è un'occasione questo documentario per ascoltare la loro voce in prima persona, che insomma non sempre appunto si ha questa occasione, questa possibilità, che raccontano come sono caduti nelle maglie della schiavitù, una schiavitù che è vicino alle nostre case, non è poi tanto lontano se si pensa che il ghetto dove viveva Boubacar dista una manciata di chilometri da San Severo, si perde nella campagna della Capitanata e del Foggiano, però è lì a portata di bicicletta, per così dire. E in Italia ci sono gli schiavi, questo è, si dice, si sa, magari, forse non si sa così tanto, e questi ragazzi, questi amici che hanno contribuito e hanno, che io ringrazio pubblicamente, che hanno voluto raccontare la loro storia, ce lo ricordano attraverso le loro voci e i loro occhi. A gestire la schiavitù, che tipo di criminalità c'è? Sono dei sistemi complessi, sicuramente la prima forma di schiavitù, che è quella legata alla tratta delle prostitute nigeriane, è ovviamente una criminalità nigeriana che assume una valenza transnazionale, in quanto dalla Nigeria, che è il centro dove appunto ci sono i nuclei che gestiscono questo tipo di schiavitù, poi si dirama una fitta rete di altri nuclei che sono all'interno di ogni stato europeo, quindi questa è una forma. Quella che riguarda per esempio Boubacar è lo sfruttamento lavorativo e la schiavitù sul posto di lavoro, ragazzi che arrivano, sbarcano a Lampedusa ancora in questi giorni, poi si ritrovano ovviamente passo dopo passo, anche in virtù di una serie di restrizioni legate a delle leggi particolarmente discutibili legate alla migrazione in Italia, si ritrovano a sprofondare passo dopo passo nelle maglie della schiavitù, quindi una schiavitù che prevede caporalato, una schiavitù che prevede se tu pensi che Boubacar, allora lui riesce, lui come tantissimi altri di tantissimi altri suoi compagni, insomma di vita, lui guadagna, se arriva a guadagnare 10-15 euro al giorno per 10-11 ore di lavoro, come si dice, grasso che cola in gergo, lui riempie una cassetta alta quanto un uomo, una cassetta di pomodori, e per quella quel cassone di pomodori ne guadagna 3,50 euro sotto il sole. Questo poi la raccolta delle arance e la schiavitù di cui è partecipe James, sempre schiavitù sul posto di lavoro, e lì ovviamente l'andrangheta ha anche la sua fortissima responsabilità. Oh, Giuseppe, volevo chiederti, in questo tuo viaggio in Italia, in giro per l'Italia, in quali e quante altre storie analoghe ti sei imbattuto, e se quelle che hai scelto rappresentano un po' una testimonianza che vale per tutti? Ogni storia è particolare, ogni storia ovviamente ha una sua peculiarità, perché storie di lavoro, storie di schiavitù significa anche storie di vita, quindi viviamo vite diverse ovviamente, però sicuramente queste storie hanno un minimo comune denominatore, una serie di passi che appunto uno dopo l'altro rendono palese questa schiavitù e la concretizzano proprio in Italia, in un paese dove questa schiavitù non dovrebbe esserci, in nessun paese, però appunto in un paese democratico come l'Italia. La scelta è stata motivata dal fatto che queste tre storie comunque rappresentano anche, direi soprattutto anche, una forma di riscatto, perché se in questo documentario queste tre storie sono tre storie di schiavitù, sono anche tre storie di riscatto. La ragazza alla fine ce la fa ad uscire dalla sua situazione di schiavitù, e come ce la fa? Paradossalmente precipitando in un inferno forse peggiore che quello della malattia, però questa forza, poi questa la brutalità insomma anche della situazione di salute in cui essa precipita, le fa assumere anche una forza per rivolgersi ad un'associazione umanitaria, fidarsi e quindi venire fuori dalla schiavitù. Boubacar trova la forza di denunciare, perché? Perché trova un suo connazionale che gli dice: senti, se tu non denunci non sarai mai libero, tu ti devi fidare. Incontra un missionario scalabriniano, padre Arcangelo Maira, che ovviamente si pone con lui in un modo sicuramente umano, gli fa capire che in Italia ci si può fidare delle persone, non di tutte, ma ci sono moltissime persone, la maggioranza, voglio credere, delle persone che ha a cuore questi problemi, e lui si fida e quindi intraprende questo suo riscatto, che è denunciare il suo sfruttatore e ricevere poi anche il permesso di soggiorno per motivi di giustizia. E James non sa cos'è l'andrangheta, neanche gliene fregava di sapere cosa fosse l'andrangheta, però l'ha subita sulla sua pelle, rimanendo ovviamente coinvolto nelle aggressioni successive alla rivolta degli immigrati di Rosarno, e lui il suo riscatto, paradossalmente, per uno strano gioco del destino, lui capita in un ospedale, nell'ospedale di Polistena, dove incontra i ragazzi della Valle del Marro, della cooperativa della Valle del Marro, che è una cooperativa della rete di Libera Terra, e trova il suo riscatto nelle terre confiscate all'andrangheta. Quindi, pur non sapendo cos'è, l'ha vissuta l'andrangheta e riesce a riscattarsi di essa lavorando da uomo libero nelle terre confiscate alla criminalità organizzata. Che, voglio dirlo, ovviamente queste realtà rappresentano più di una speranza, non solo per James, ma per quella terra. Certo. Giuseppe, al di là delle cifre ufficiali, rispetto alla schiavitù dei migranti, di quali cifre parliamo, se ne sei venuto a conoscenza? È difficile dare una quantità, una dal punto di vista statistico è molto difficile riuscire a dare delle cifre, perché non si sa quante persone arrivano in Italia, quanti sono e quanti vengono impiegati. Di sicuro io questa domanda, la tua stessa domanda, l'ho fatta per quanto riguarda la prostituzione nigeriana al procuratore Davide Mancini. Si parla di cifre enormi, si parla di centinaia di migliaia, e questa per quanto riguarda appunto le prostitute nigeriane. Quindi sì, le cifre, ovviamente parlo in tutta Europa. E il business che ne viene fuori è mastodontico, cioè ogni ragazza che viene ovviamente sfruttata, messa sulla strada, ogni ragazza legata alla tratta delle nigeriane, delle prostitute nigeriane, deve corrispondere un importo pari a circa 60.000 euro alla propria sfruttatrice. Parliamo di 60.000 euro, tenendo escluso quello che viene in gergo chiamato anche joint, cioè una sorta di regalino di altri 10.000 euro che ogni singola ragazza deve corrispondere alla propria sfruttatrice, in gergo chiamata madame. Quindi 70.000 euro per ogni ragazza, parliamo di decine, centinaia di migliaia di ragazze in tutta Europa, quindi effettivamente gli introiti che queste ragazze portano all'organizzazione, all'organizzazione che le sfrutta, è assolutamente rilevantissima. È un fenomeno, insomma, che in Italia si vede, no? Basta percorrere le principali direttrici, no? Per esempio la Salaria, ci sono delle strade particolarmente piene di queste ragazze, uno magari non ci fa caso, però dietro ognuna di esse c'è una storia che è sicuramente sofferente, lo stato puro. Giuseppe, allora ricordiamo l'appuntamento su Rai 3 il 27 luglio, l'orario della messa in onda? L'orario della messa in onda è le 23.35, notte, tarda notte, però va bene, insomma. Benissimo, allora mercoledì prossimo della prossima settimana su Rai 3. Per Grazie. Avere maggiori informazioni, in rete esiste un riferimento al tuo Schiavi, al tuo documentario? Assolutamente sì, c'è il sito di Doc3, che è lo spazio, il format entro cui trova posto Schiavi, il Benissimo. Documentario, quindi sicuramente collegandosi a doc3.rai.it troveranno informazioni relativamente al documentario, c'è una mail e si potrà, insomma, interagire sicuramente, anzi sarà un piacere. Benissimo, allora in bocca al lupo e a presto. Io voglio ringraziare gli ascoltatori di Radio Onda Rossa, grazie mille. Benissimo, ciao caro. Ciao. Giuseppe Laganà, regista del documentario Schiavi. È con noi Gianluca Rame, regista del documentario Lo Stato si è estinto. Ci sei? Ciao. Eccoci qua, ciao. Allora, intanto complimenti per il titolo, che mi sembra proprio di richiamare lo spirito della rivista satirica Il Male, di cui il documentario parla, se non sbaglio. Sì, guarda, è un titolo, è una falsa Repubblica, una falsa prima pagina di Repubblica, ma è anche un titolo attuale, vista la condizione nella quale ci troviamo, insomma, quindi... senz'altro attuale. Nel contesto, questa falsa repubblica pubblicata dal Male si riferiva ai funerali di Moro e alla bara vuota di Moro durante il funerale, perché la famiglia non aveva dato il corpo e c'erano tutte queste facce di pietra, Andreotti e gli altri che assistevano a questo funerale senza il morto, insomma, e quindi lo Stato si è estinto per quello. Senti Gianluca, allora per chi, soprattutto per i più giovani, stiamo parlando del Male, cos'era il Male? Ma il Male è stata una rivista satirica importantissima che è stata pubblicata dal 77 all'82 e che ha visto al suo interno tra i più importanti comunicatori, vignettisti e uomini di satira di quell'epoca, che si sono riuniti casualmente in questa rivista che è arrivata a vendere fino a 150.000 copie. È stato un evento mediatico importante in un contesto complicato per l'Italia, cioè dal 77 appunto, dal sequestro Moro fino all'82, fino all'avvento del berlusconismo televisivo, e quindi il mondo è cambiato, il Male è chiuso, insomma. Oh, quindi, Gianluca, dimmi. Come sei venuto a conoscenza dell'esistenza di questa pagina importante dell'editoria italiana e poi perché come mai hai deciso di farne un documentario? Ma guarda, devo questo documentario a un vignettista che adesso non c'è più, che era un grandissimo, Sergio Angese, vignettista per Repubblica, che mi ha raccontato tutta una serie di peripezie legate a questa avventura. Lui era tra il primo gruppo, tra i fondatori del Male, e questi racconti pazzeschi. Loro furono invitati anche da Pertini, e c'era tra di loro anche Andrea Pazienza, subirono più di 150 sequestri, e allora era veramente un racconto che meritava di essere riraccontato. E poi adesso pare che il Male riesca, questo Vauro e Vincino stanno cercando di farlo riuscire, speriamo di rivederlo nelle edicole tra poco. Uh-huh. Senti, come hai deciso di strutturare il documentario? Ma il documentario sostanzialmente ricostruisce quella che è la storia del Male, quindi dall'inizio, dai loro incontri. Sono una serie di interviste a Vauro, a Vincino, ma anche allo stesso Forattini, e ripercorrono un po' la storia del Male, cioè dagli esordi fino al successo e appunto a questa distribuzione incredibile. È una sorta di parabola, che poi è stata anche la parabola di questo giornale, attraverso delle interviste ai protagonisti, a quelli che sono rimasti purtroppo, perché alcuni, tra cui Andrea Pazienza, non ci sono più. Sì, sì, sì. Senti, il gruppo, il nucleo, da quante persone era composto? Ma Vincino, che adesso è vignettista per il Corriere della Sera, è stato il direttore. Poi c'erano Andrea Pazienza, Roberto Perini, Jacopo Fo, Vincenzo Sparagna, Cinzia Leone. Per un periodo Giorgio Forattini è stato solo editore, solo direttore, non ha mai pubblicato, però gli ha consentito di andare in edicola, perché loro non erano giornalisti professionisti, in pratica. Sì, però sì. Il nucleo è questo, il nucleo principale del Male. Oh, come dicevi poco fa, dei vari sequestri, il Male ha avuto anche lunghe vicissitudini e tribolazioni, è stato nell'occhio del ciclone diverse volte in diverse circostanze. Raccontaci un po' anche questo aspetto. Ma subì più di 150 sequestri, però poi alla fine il sequestro, venivano sequestrate tutto sommato poche copie, che erano le copie nelle grandi città, però era anche un grande modo poi per farsi pubblicità. Chiaramente furono, nel 77 c'era la P2, oggi c'è la P4, però voglio dire, c'era la Gladio e tutta una serie di poteri forti che ovviamente erano contro il Male, perché il Male, non avendo editori, e loro erano editori di loro stessi, era un giornale assolutamente libero, quindi libero di scrivere tutto ciò che volevano, che ritenevano giusto, e questo gli ha portato una serie di denunce tantissime e appunto più di 150 sequestri. Lottavano contro il sistema di allora, con successo. Essendo editori di se stessi, come funzionava la redazione? Come venivano decise le... La redazione era un grande tavolo intorno al quale loro si sedevano e liberamente parlavano di quello che era il taglio del giornale, tolti i fondamentali, levati si poteva parlare di tutto, quasi di tutto, insomma, nel senso che erano liberi e in modo assolutamente democratico decidevano quale, cioè democratico, poi tra di loro litigavano, c'erano dei gruppi, insomma, c'erano i vignettisti e gli scrittori, però non c'era una struttura piramidale, era una struttura, diciamo, paritetica fra di loro. Oh, mi sembra che abbia creato anche, sia stato anche un polo culturale, è stato anche un punto di riferimento il male. Sì, è stato un punto di riferimento soprattutto per la comunicazione, perché era una comunicazione assolutamente nuova per il panorama italiano della fine degli anni 70, che era assolutamente indietro, insomma, quindi loro... Molto legata al fumetto. Scusami? Tra l'altro molto legata al fumetto, chiaramente. Molto legata al fumetto, ma poi loro erano anche dei situazionisti, quindi, come dire, inventavano anche del, non so, quando ci fu un nuovo papa, anche loro presentarono il loro papa affacciandosi, diciamo, dalle finestre della redazione, vestiti da come dire, con tutti i paramenti e le cose, e anche lì ci fu un'irruzione della polizia, ci fu anche un arresto, insomma, loro erano molto estremi, insomma, molto estremi e intelligenti, quindi e molto avanti, molto avanti. Oh, e tra l'altro si ritrovarono ad operare, dicevi, dal 77 all'82, in un periodo piuttosto caldo per questa Repubblica. Beh, un periodo caldissimo. Loro al terzo numero rapirono Moro. rapirono Moro e loro su Moro scrissero moltissimo, furono anche molto criticati. Loro avevano anche, diciamo, un atteggiamento critico verso le Brigate Rosse, verso quelli che loro comunque ritenevano i soldatini della rivoluzione, quindi hanno fatto anche un'opera di smitizzazione. Erano contro la lotta armata, erano contro lo Stato ed erano anche contro le BR, insomma, era una posizione, come dire, abbastanza scomoda. E poi, appunto, il 77 in Italia è successo di tutto, dalla Gladio, dal sequestro Moro, come da Licio Gelli. Insomma, c'era parecchio da dire, così come oggi, non è che oggi la situazione sia tanto più rilassata, ecco, però insomma, ecco, 150 sequestri penso che sia, come dire, il metro di come siano andate le cose per il male. Certo, certo. C'era solo però questo tipo di nemico, c'era solo lo Stato, oppure hanno incontrato anche altri tipi di difficoltà nell'editare il male? Ma principalmente c'era lo Stato, c'erano le procure, c'erano i questori, c'era un questore particolarmente, diciamo, come dire, contro il quale si chiamava Pompò, quindi su questo cognome loro costruivano tutta una serie di cose e di vignette di facile, come dire, però principalmente contro lo Stato, sì. la Democrazia Cristiana che imperava in quegli anni già da tempo, insomma. Poi, andando avanti, il sistema è cambiato, c'è stato uno sviluppo forse negativo, non lo so, più negativo di quello che già c'era, e quindi il male si è esaurito, perché si era esaurito quel tipo di politica, quel tipo di società, e quindi anche loro. L'atteggiamento della gente comune? L'atteggiamento della gente comune era un atteggiamento di grandissimo divertimento, perché questi falsi che loro hanno inventato, il giornale al centro, girato al contrario, diventava una falsa repubblica, diventava una falsa unità, eccetera eccetera, quindi la gente lo comprava, si divertiva, lo girava. Loro facevano questo falso, beh, ormai famosissimo, di Tognazzi, capo delle BR, che alla quale tutti credevano, insomma, fecero una serie di falsi davvero eclatanti, e poi, ti ripeto, erano dei puri situazionisti, si inventavano di tutto, distribuivano della finta droga allegata come gadget, in realtà era pepe, oppure mettevano una modella nuda, diciamo, nell'edicola in allegato al giornale. Sono stati i primi a inventarsi gli allegati dei giornali, erano chiaramente delle gag, erano dei grandi provocatori. Senti, che direzioni, che strade hanno preso i superstiti, cioè quelli che non ci hanno lasciato le penne? Purtroppo cinque di loro non ci sono più, perché anche per motivi di droga, diciamo, Andrea Paziente, sì. Insomma. Beh, sono tutti, insomma, ecco, Angelo Pasquini è uno sceneggiatore importante, insomma, ha scritto film per Placido e altri. e Vauro lo conosciamo tutti, voglio dire, è uno dei più bravi, Vincino, Jacopo Fo, Centaleone fa la grafica, insomma hanno tutti continuato a fare questo in altri ambiti. Ecco, speriamo che riescano, che Vauro e Vincino riescano a trovare una strada libera altrettanto quanto erano libri loro nel 77 per riuscire a ripubblicare il male, perché oggi credo che comunque insomma ci sente bisogno, no? Di una voce particolarmente libera e insomma. Proprio a questo proposito, Gianluca, dopo quella splendida stagione, però si può dire che la satira in questo paese è praticamente inesistente. Ma la satira è inesistente perché oggi purtroppo, ieri c'era la censura e oggi c'è l'autocensura, che è ancora peggio, quindi giornalisti, comunicatori, comunque all'interno dei grandi gruppi editoriali sono i primi a non esporsi, di questo ne vediamo le conseguenze, le voci libere sono sempre meno ed è sempre più complicato riuscire a svincolarsi comunque da quelli che sono gli interessi. Mm-hmm. Un'esperienza come il male oggi potrebbe essere accomunata al Report, che comunque è in un certo senso editore di se stesso, nel senso che Rai 3 acquista da giornalisti freelance servizi, però comunque c'è sempre dietro un grande network. Loro non avevano editori, non avevano nessuno, erano loro stessi che pubblicavano il giornale e lo mandavano in edicola. Oggi è soprattutto, si può dire, ecco, proprio in riferimento al Report, che è lo spettro giudiziario a fermare la spinta Sì, assolutamente sì, perché mentre una volta, diciamo, il problema è che oggi ti fanno le cause civili, quindi questo vuol dire che magari ti chiedono milioni di euro di risarcimento mettendo in difficoltà chiunque, magari ti riesce a fare una causa civile proprio perché questo impaurisce e spaventa le voci libere di questo paese. Oh Gianluca, due cose. Sì. Rispetto al male, ecco, esiste un archivio consultabile? E poi rispetto al tuo documentario, dove si può, se c'è un sito internet ad esempio per sapere, per avere un calendario di proiezioni? Ecco, questi due. Guarda, l'archivio, l'archivio cartaceo ce l'ha Vincenzo Sparagna, che è uno dei fondatori e ha una sorta di, lui poi è fondatore di Frigider e ha tutte quante le copie. Un archivio digitale non credo che esista. E per quanto riguarda il mio documentario, sarà distribuito nei festival, suppongo, sperando che qualcuno lo acquisti, diciamo, oppure che sia legato a un nuovo male, eventualmente potrebbe essere comunque interessante sapere cos'era prima il male. Per chi è giovane, insomma, non sa cosa sia. Certo, però dico, in internet c'è un sito dedicato al tuo lavoro? No, su internet non c'è un sito dedicato al mio lavoro. Okay. Non ci ho ancora pensato, però potrei farlo. Ancora non ci ho pensato. E al di là del progetto del nuovo male, ecco, per quanto riguarda un archivio digitale, ci si sta pensando? Ma io spero di sì, è una cosa nella quale non sto seguendo direttamente, voglio dire, non so se appunto se Vauro e Vincino hanno pensato a questo o addirittura hanno pensato a una distribuzione esclusivamente digitale, mm-hmm. visto che comunque oggi il web tutto sommato è ancora uno spazio relativamente libero, perché no, però non ti saprei dire. Ho capito. Bene, allora Gianluca, in bocca al lupo e ci sentiamo per le prossime novità. Ti ringrazio ciao. Molto. Ciao, ciao. Ciao, buona giornata, ciao. Guido Morandini, ci sei? Sì, eccoci. Ciao. Allora, regista del documentario La verifica instabile, presentato a Cinema Ambiente a Torino, si parla di Po, vero? Si parla di Po, sì, e non solo. E non solo. Allora, raccontaci un po'. Guarda, io lavoravo in Rai a Torino, Po scorre lì sotto. E ho pensato di utilizzare questa risorsa, ho cominciato a pagaiare, imparando agli amici del fiume, e poi, stando proprio di fronte alla Mole, che c'è il Museo del Cinema, dovevo andare al Festival del Cinema di Venezia e ho detto partiamo da qua e arriviamoci via acqua. Ci ho messo 12 giorni, però non potevo solo andare in acqua perché Oh, mi sono inventato un sistema un po' banale, una bicicletta pieghevole, un carrello altrettanto pieghevole e una canoa gonfiabile. Quando ero su strada, lungo questi argini meravigliosi che corrono questi 100 km nella Pianura Padana, andavo in bicicletta. Se scendevo in acqua, mettevo tutto sopra la canoa e continuavo. Era autonomo, anfibio. Beh, bellissimo. Praticamente pedali e canoa gonfiabile. Esatto. La cosa, diciamo, che è interessante e che bisogna dire a dispetto di tutto quello che si racconta su questo fiume. Questo è un parco lineare straordinario che attraversa una delle zone più popolose del pianeta, anche più ricche, e che nonostante ci si faccia di tutto sopra, questo continua a vivere e a dare vita. Ecco, diciamo che passare anche ore senza incontrare nessuno, oppure incontrare una popolazione particolare, la popolazione che vive lungo queste sponde, che ha un altro ritmo all'interno degli argini rispetto a quelli che stanno fuori, un tempo lento, un modo di leggere la natura, la vita straordinaria. Quindi è un contenitore di storie, e quindi via via che andavo avanti cambiava anche il mio atteggiamento, in questo senso la verifica. Mm-hmm. Il mio atteggiamento che partiva da un documentario classico, intervistando le persone che trovi su internet, te la prepari fino ad andare, a un certo punto abbandoni tutto e prendi quello che ti dà l'acqua e le persone che ci scivolano sopra, le persone che ci vanno a pescare, le persone che ci vivono, le persone che... Cioè, ecco, diciamo che alla fine abbandoni anche le strutture narrative e diventi, come dire, acqua e quindi cominci a perdere un po' di riferimenti. In questo senso è un percorso a più voci in cui si perdono le certezze, e questa è la cosa che mi è piaciuta. Ecco, diciamo che la verifica è instabile prima di tutto perché abbiamo uno strumento instabile, perché non crediate che una canoa e una bicicletta insieme siano tanto galleggino benissimo, quindi il fatto già di galleggiare, l'altra verifica, arrivare fino a Venezia con le proprie forze, se no il documentario non veniva finito, io non l'avrei fatto se non arrivavo a Venezia con le mie forze, e l'altra verifica è verificare i linguaggi della narrazione. Oh, a questo punto ti chiedo, il discorso mi interessa in particolare perché abbiamo parlato due o tre puntate fa, quindi due o tre settimane fa, con il regista, che poi è una sigla collettiva, Nicola Angrisano, del documentario Un po' di petrolio, che invece parlava di un incidente avvenuto nell'affluente Lambro, una fuoriuscita di petrolio dalla Lombarda Petroli, se non sbaglio, e quindi al danno ecologico che ha subito il fiume, ma che comunque continua a subire da un sacco di industrie che si vanno proprio a ridosso delle acque. Ecco, tu invece adesso mi parli di sorprese in positivo. Ecco, mi piacerebbe, ecco, sviluppare un po' questo aspetto con te. Io sono passato dall'Ambro, è una delle cose che mi hanno detto è che pochi anni fa, come dappertutto, bevevano anche l'acqua di vicino all'Ambro, ci nuotavano, ci hanno imparato a nuotare le persone, quindi il fiume effettivamente è cambiato e l'Ambro è abbastanza duro come fiume, come realtà, però io voglio invece dire una cosa importante. Sì. Il fiume va vissuto, chiunque scende nei fiumi, che sono estranei, è vero, i fiumi sono estranei, il reticolo urbano di questa nazione, poi della Pianura Padana in particolare, è un reticolo che ignora totalmente il sistema ambientale. Sì. Questo sistema ambientale però è l'unica continuità che noi abbiamo, cioè noi dobbiamo riaffermare l'idea di territori liberi, e i territori liberi sono territori come quello del Po, uno degli ultimi fiumi a corrente libera. Significa che non ha sbarramenti, escluso Viga Serafini. Se voi andate a vedere qualsiasi tipo di fiume in Europa, ha dighe sopra dighe, questo è un fiume capriccioso, è un fiume anche particolare, anche difficile, perché come dicono l'acqua prende, l'acqua toglie, perché è un fiume che non è ancora regimentato, ci sono dei progetti per regimentarlo. Io però voglio dire che questo fiume si rigenera anche, proprio perché ha corrente libera, proprio perché si riossigena, proprio perché comunque c'è una grande forza. Allora, andiamo nel fiume, in queste continuità, dove praticamente si può andare non fermati dalle proprietà private, dagli sbarramenti, eccetera, e affermiamo questa cosa e cominciamo a dire che è un fiume che si può vivere. Basta anche soltanto parlare solo in negativo, parliamone in positivo, certo, perché è veramente un grande contenitore di tutto. Allora, in questo senso, diciamo che forse non sono andato a cercare lo sporco, fanno cercare il pulito, il bello, la vita. Senti, quali realtà che, con cui sei venuto a conoscenza ti hanno più sorpreso in positivo, proprio parlando di positività? Sono i personaggi del Po, uno in particolare che si chiama il re del Po, che è una persona che in un'isola, Boretto, che è una parte molto vissuta, dove c'è un porto, eccetera, un porto fluviale, nella zona vicino tra Parma e Reggio Emilia, lì questo... Pronto? Pronto, sì. Sì, sì, raccoglieva i pezzi che portava il Po, cosa gli regalava il Po, tronche, qualsiasi cosa, e l'ha trasformato in una specie di parco gioco, dove ci vanno i bambini. Lui si chiama il re del Po, è una persona che ti trasmette sostanzialmente quella che è l'identità di questo fiume, innanzitutto la sua lentezza. Io, come un po' nevrotico, urbano, no, devo andare a far questo, no, il Po, per andare sul Po ci vuole calma, e questo è il primo insegnamento. poi ricordati che il Po c'è prima di te e ci sarà dopo di te, quindi relativizzati, comincia a capire quello che sei veramente. Allora, in questo rapporto, in questo modo di raccontare le cose, in questo stupore nel vedere, per esempio, dentro gli oggetti che gli dava il Po, i tronchi eccetera, delle cose e trasformarli in opere d'arte oppure in qualsiasi, è, come dire, un'interpretazione meravigliosa della natura, anche artistica se si vuole. Poi, che so, ci sono anche persone tipo Vittorio del Delta del Po, che ti porta a viaggiare tra i canneti raccontandoti la storia in maniera leggera, negli angoli nascosti di un altro posto straordinario, nonostante, e questo è veramente un dramma, la Torre di Porto Tolle, questo grande impianto di produzione di energia elettrica, sta là fermo per adesso, ma ci sono anche progetti di riconversione, però con questa torre troneggia sul delta, però il delta, se tu riesci a stare alle canne, riesci a estranearti in un'acqua bassissima, però che riesce anche a infuriarsi, come è successo a noi, per una tempesta. Oh Guido, eccoci, abbiamo recuperato la tua voce. Volevo chiederti, dal punto di vista della tutela ambientale, ci sono oasi protette o in via di definizione? Questo io ti dico la verità, non te lo so dire, perché stavo dentro l'acqua, quindi non facevo distinzione da quello che era. Ci saranno sicuramente, ci sono delle aree protette sicuramente, però io non ho fatto un'analisi di questo genere. Volevo chiederti, di questi 12 giorni, ecco, che esperienza è stata? Era la prima volta o hai fatto una cosa che ti sei sentito di fare e che in qualche modo ti ha trasformato? Allora, era la prima volta, sì. Adesso io sono in mezzo a un altro viaggio, un po' più rischioso, un po' più difficile, perché poi sì, bisogna fare attenzione ad essere fiumi, ma alla fine è una via tracciata. Sì. Io adesso dalle Alpacuane sto andando a Roma, praticamente scendendo la Versilia, che è tutta una zona navigabile, sì. Risalendo a tratti l'Arno, e poi attraverso l'Alpi di Catenaia, discendo il Tevere. È il viaggio di Michelangelo. Ho preso dei pezzi di marmo delle cave di Michelangelo, due cave distinte, e una l'ho portata a Firenze, ieri l'ho portata a Firenze, e ho fatto e l'altro invece lo porterò a Roma. E si chiama Spartiacque perché praticamente è Michelangelo per sorte, è nato a Caprese Michelangelo, che è proprio lo spartiacque dove le acque si dividono tra Roma e Firenze, quindi tra l'Arno, tra il Tevere e l'Arno. E guarda caso, Michelangelo sarà sempre diviso tra queste due città. Senti, e tornando al Po, visto che poi ti ha dato il via per questa nuova avventura, e hai trovato sostenitori a questo tuo viaggio avventuroso, chiamiamolo così? È straordinario, ma ci sono sempre persone che provano a scendere il Po, e lo vogliono fare in qualsiasi mezzo. C'è chi l'ha sceso con delle pinozze da bagno, chi lo sta scendendo con delle navi vichinghe, chi lo scende invece in maniera più semplice ma anche faticosa con le tavole da surf, come il mio amico Luca, che deve seguire anche lui. Insomma, diciamo che ogni volta che una persona prova a fare una cosa così, la comunica, perché questo è importante, automaticamente tu riesci a contattare con altre persone che hanno voglia di farlo, e più gente, dico, scende il Po, e più il Po vive. La cosa che ha fatto invece un'altra persona, che è Stefano De Stefano Giacomo, l'ha risalito, l'ha risalito praticamente da Venezia invece fino ad Asti, in quelle zone là, praticamente con la vela, può fare anche questo, andare controcorrente. Ecco, prima... Perché c'è un... Prego. Dai, di, perché c'è un... No, perché c'è un vento che risale i fiumi. Per cui infatti veniva utilizzato dai vecchi renaioli, da tutti quelli che lo utilizzavano, ma soprattutto da chi il fiume lo faceva vivere, perché era anche una via di comunicazione. Quindi anche questo aspetto qua, un giorno poteva fare 40 km, un giorno poteva tornare indietro, bisogna mettere in conto. Ecco, questa è una cosa importante, ti dà un grande insegnamento, il fatto che tu segui la natura, sì. E questo, ripeto, relativizza tanto. Oh Guido, prima ti chiedevo di riserve naturali e poi mi hai detto di questo, insomma, dei vari compagni di viaggio che hanno affrontato l'avventura come te. Ecco, possono essere queste testimonianze che in qualche modo aiutano nella salvaguardia della natura? Sì, io prima ti ho detto non lo conoscevo, ma ho detto una cosa che in quel momento io ho cominciato con il signor Bevione, presidente del Parco del Po, e lui che poi via via in realtà mi ha dato anche altre cose, per esempio c'è la riserva del Delta Veneto, c'è anche la riserva dei fiumi che tipo il Ticino che ci si immettono, quindi c'è un'operazione di salvaguardia ed è un'operazione a Torino interessante, per esempio. A Torino Bevione è un ex operaio che diventa presidente, e lì c'è proprio la trasformazione interessantissima di come la classe operaia, dalle lotte per l'acquisizione, come dire, reale, eccetera, lui diceva con meno attenzione all'ambiente negli anni 60-70, piano piano a fine degli anni 70 cominciano a capire l'ambiente, e le battaglie si trasformano in qualche maniera in battaglie ambientali, cioè della salvaguardia di aree dopo aver inquinato, ma anche, come dire, senza volerlo, ma era più importante il posto di lavoro, piano piano si forma una coscienza di tipo appunto ambientale. Questo, ecco, lui è un esempio particolare, una persona che mi ha anche dato tanto in questo senso, istruendomi su questo, no, raccontandomi proprio quello che è stata la sua trasformazione proprio come persona, da operaio, da sindacalista, è diventato poi piano piano ambientalista, e oggi lotta e combatte perché il Parco del Po, quello lui che è presidente torinese, diventa una cosa viva, e vale la pena andarlo a fare, perché vi posso dire che io lo facevo tutte le mattine una centinaia di chilometri nell'anello lungo il Po. È effettivamente bello, è bello e vivibile, e l'hanno salvato con le lotte dall'edificazione. Oh Guido, per saperne di più sul tuo lavoro c'è in internet qualche riferimento? Sì, c'è il blog che in questo momento è il film che è proprio fatto viaggio, però ci sono circa 18 video, quindi si ha una sensazione di tutto il viaggio più il documentario, però andate a vedere, perché è bello, sono pillole montate giorno per giorno, la sera, la notte, quando, e si chiama, basta digitare www.viaggiosulpo.wordpress.com, e questo, diciamo, è tutto ciò che c'è sul posto. Se qualcuno vuol vedere cosa sta succedendo adesso, gli posso dare un altro indirizzo, che è invece un sito, che è www.spartiacque.altervista.org. Benissimo. Questi sono, diciamo, i due punti dove si può vedere qualcosa in più. Un abbraccio, una buona navigata e pedalata. Grazie. A presto, ciao. Grazie, ciao. Beh, Guido Morandini, una scoperta, regista del documentario La verifica instabile. Oh caro Nicola Angrisano, tu ti raccomandavi, ma io ti ho sentito per una montagna di balle, per un po' di petrolio e adesso per questo genuino clandestino, sempre con voci diverse, perché il abbiamo un po' la memoria corta, forse, sai com'è. Sempre con voci diverse, perché chiaramente, lo diciamo per chi ci ascolta, è una sigla collettiva quella di Nicola Angrisano, che si sta producendo in diversi documentari, devo dire. Sì, sì, ultimamente diciamo ci stiamo dilettando a guardarci molto intorno e insomma scopriamo cose molto interessanti e ci piace sempre raccontarle, certo, in un modo o nell'altro. Allora, Genuino Clandestino, di cosa si parla? Genuino Clandestino è un film su un rinnovato rapporto con la terra, in realtà un rapporto con la terra che viene, diciamo, da lontano, ed è un film su le alternative alla grande distribuzione per quanto riguarda i prodotti e all'agricoltura industriale. È un film sulle resistenze contadine in generale. A proposito di resistenze contadine, l'Italia è un paese sempre meno contadino. Sicuramente, prima di tutto possiamo dire che l'età dei contadini è sicuramente si è sicuramente innalzata, e anche l'immaginario connesso all'agricoltura è un immaginario molto molto stereotipato, e questo chiaramente produce un allontanamento dalle campagne, sia per quanto riguarda una questione immaginaria, sia per una questione connessa proprio ai redditi che si possono ricavare coltivando la terra, anche se in tempi di crisi la scelta di tornare alle campagne forse non è una scelta così, diciamo, sbagliata. Certo, certo. Devo dire che immagino, come per molti altri settori, anche nell'agricoltura probabilmente le aziende più grandi sono quelle che prendono il sopravvento rispetto alla piccola agricoltura, e in questo senso ti volevo chiedere come avviene questa resistenza? Allora guarda, la parola chiave in questo caso è auto-organizzazione. I contadini hanno capito benissimo che possono mettere in piedi circuiti, reti e relazioni diversi da quelli dell'agricoltura industriale e della grande distribuzione. È importante chiaramente avere il controllo sulle diverse fasi, questo per vari motivi, sia per evitare passaggi di mano che incidono fortemente sul reddito e sulla qualità dei prodotti, sia per proporre modelli alternativi a quelli della grande distribuzione. Quindi promuovere dei modelli alternativi significa inventarsi, oppure, o meglio, raccontare nuovi stili di consumo che sono i vecchi stili forse di consumo, in un certo senso, senza per questo essere tradizionalisti, no? E rifugiarsi in un immaginario, insomma, del tipico, una cosa che a sua volta è oggetto del greenwashing. Proporre nuovi modelli di agricoltura contadina significa reinventare anche le reti e le relazioni tra i soggetti, in un certo senso creare nuove forme di autonomia e di economia. Immagino, Nicola, che vi siate mossi, questo fenomeno interessi un po' tutto il territorio nazionale, e volevo chiederti dove vi siete mossi e con chi avete interagito. Guarda, prima di tutto una notazione, noi finalmente ci siamo mossi su tutto il territorio nazionale, ma ritornando alla terra e cominciando a raccontare queste realtà senza partire da un conflitto, no? Noi abbiamo narrato, diciamo, le vicende dei migranti, la crisi dei rifiuti e problematiche vere legate all'ambiente e i conflitti che queste comunità, diciamo, interessate instauravano di volta in volta con un'autorità che cambiava, che prendeva, diciamo, diverse facce. Questa volta siamo ripartiti dalla terra e abbiamo girato in lungo e in largo l'Italia. Questa idea è nata lì a Roma, ad uno dei mercati di Terra Terra, sì, che ci ha dato lo stimolo e l'interesse a raccontare queste vicende. Noi eravamo lì per presentare un altro nostro documentario, che è Il tempo delle arance, che in qualche modo parla di migranti, sì, ma è legato alle tematiche dell'agricoltura. Da quel momento in poi, seguendo un po' il percorso che le varie reti italiane, no, hanno creato sul territorio nazionale, siamo stati a Bologna, piuttosto che in vari posti campani, in Umbria, a Perugia, piuttosto che a Roma, e ci siamo resi conto che esistono stesse esigenze, stesse forse rivendicazioni da una serie di soggetti, ma diversi tipi di agricoltura, perché sono le agricolture dei territori, no? Chiaramente. Certo, certo. E questo, diciamo, modo di fare è stato declinato in maniera diversa a seconda dei territori. Noi, diciamo, più o meno abbiamo provato a raccontare questa diversità, ma soprattutto a mettere in luce gli obiettivi comuni di quella che poi è diventata una campagna che ha dato il nome al film Genuino Clandestino, appunto. Mm-hmm. Oh Nicola, volevo chiederti, a livello più generale, quali sono le difficoltà che incontra questo tipo di agricoltura e quali prospettive in positivo si stanno sviluppando? Guarda, ci sono due ordini di problemi, un problema di tipo interno e problemi forse di tipo esterno, anche se fosse una definizione un po' impropria. Prima di tutto c'è un problema relativo all'accesso alla terra. La terra costa molto, la terra è un motivo di speculazione anche per chi la terra non la coltiva, no? Per chi vuole utilizzare quella risorsa, la risorsa suolo, come un asset per veicolare altri tipi di speculazioni, come bene rifugio per gli investimenti, come strumento per aumentare di valore a una risorsa a seconda delle trasformazioni che si fa. Molti dei territori, per esempio parlando della nostra terra, la Campania, noi siamo campani, la maggior parte di noi, molti dei territori valgono di più se trasformare in territori per questi grossi centri commerciali, oppure nel peggiore dei casi come luoghi per interamente rifiuti delle ecomafie. Quindi una nuova campagna per l'accesso alla terra è una delle rivendicazioni fondamentali, soprattutto per quanto riguarda, diciamo, i giovani agricoltori, no, che magari trovano molti terreni incolti nei loro territori, ma non hanno fisicamente la possibilità di acquistare questi stessi terreni. Questo è uno dei problemi più grandi. E poi chiaramente il modello di produzione. Il modello di produzione è stressato sulla sovrapproduzione, che a sua volta porta a un grandissimo spreco, e quindi, diciamo, una logica che è funzionale al capitalismo. Reinventarsi percorsi di autonomia in questo senso significa sovvertire quell'immaginario che è nuovamente legato all'agricoltura negli ultimi anni. E quindi lavorare in autonomia su tutta la filiera, dalla produzione, anzi dall'approvvigionamento dei semi, fino ad arrivare alla distribuzione dei beni e delle merci in generale, no? Per cui Genuino Clandestino, come si dice nel film, non potrebbe esistere senza la vendita diretta, per esempio. Sì. Un nemico, che poi non è proprio un nemico, però diciamo un problema da affrontare, sono tutte poi le operazioni di greenwashing legate chiaramente al bio, al biologico, alle sue certificazioni e via dicendo, che poco hanno a che fare con l'agricoltura contadina. Questo, diciamo, un dato importante, secondario rispetto alle questioni citate prima, ma comunque di rilevante importanza per chi si vuole avvicinare a questo tipo di percorso. Allora, per quanto riguarda le proiezioni, ricordo la prossima a Narni, in provincia di Terni, giovedì prossimo 28 luglio, e invece in rete ci dai qualche altro riferimento? Sì, allora, noi avremo una proiezione a Narni, una proiezione in Puglia, a Lecce il 4 agosto, se non vado errato, e una serie di altre piccole produzioni sparse per l'Italia. Sì. Tra poco faremo uscire il film anche in rete, e sicuramente come portale, diciamo, per veicolare questi contenuti utilizzeremo il blog di InsuTV e chiaramente il blog di Genuino Clandestino, che, come dicevo, è una campagna che va al di là del documentario. Certo. di InsuTV, e di cui InsuTV si, come dire, si accolla in un certo senso con onore e con piacere la parte anche della comunicazione quando è possibile, diciamo. Nicola, un abbraccio, in bocca al lupo. Un abbraccio a voi e grazie. A presto, ciao. Colan Grisano, regista del documentario, regista collettivo del documentario Genuino Clandestino. Oh, mi sarebbe piaciuto parlare anche con Paolo Pisanelli della sua festa in quel di Specchia, in provincia di Lecce, festa di cinema del Reale, giunta all'ottava edizione dal 20 al 23 luglio, quindi in pieno svolgimento, ma non riesco a contattarlo, per cui comunque ve lo ricordo, ve la segnalo, trovate i riferimenti sulla pagina di Visionari su Radio Onda Rossa, alla voce trasmissioni Visionari per l'appunto, dove troverete la scaletta di oggi e tra gli altri appuntamenti della settimana anche questo che vi ho appena indicato. E a questo punto ci salutiamo, ci diamo appuntamento a giovedì prossimo sempre per Visionari. Tutte le informazioni, la scaletta la trovate sul sito della radio con gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di domani venerdì 22 luglio, i nostri suggerimenti sui film in programmazione a Roma e provincia, i film in televisione, gli appuntamenti della settimana e il link per ascoltare in podcast la puntata precedente, leggere interviste e recensioni. Buon proseguimento!